Libro undicesimo. In principio hai fatto il cielo e la terra. Fa che io intenda e comprenda come. È Mosè che lo ha scritto. L'ha scritto e se n'è andato per tornare là da dove era venuto. Da te. Era di passaggio in questo mondo e ora non è qui di fronte a me. Dunque, non potendo interrogare lui, io chiedo a te. Verità, a te, Dio, chiedo, concedi a me di comprendere queste parole, tu che hai concesso a quel tuo servo di dirle. Ecco, il cielo e la terra esistono e gridano che sono stati fatti perché sono soggetti a mutamenti e variazioni e gridano anche di non essersi fatti da soli. Se esistiamo è perché siamo stati fatti, dunque prima di esserlo non c'eravamo in modo da poterci fare da soli. È l'evidenza stessa che parla per loro. Tu dunque li hai creati, che sei bello perché sono cose belle, tu che sei buono perché sono cose buone, tu che esisti perché esistono, ma non sono cose belle né buone né esistenti, come lo sei tu, loro autore, al cui confronto non sono belle né buone e neppure esistono. Questo sappiamo grazie a te, e il nostro sapere, paragonato al tuo, è ignoranza. Ma in che modo hai fatto il cielo e la terra? Qual è il meccanismo di operazione tanto grandiosa? Perché certo non hai fatto come l'artefice umano che forma un corpo da un altro corpo secondo il capriccio della mente, la quale è capace di riprodurre qualunque forma distingue in se stessa con l'occhio interiore. Ma cos'è il tuo fare? In che modo, Dio, hai fatto il cielo e la terra? Non è certo nel cielo o in terra che hai fatto il cielo e la terra, e neppure nell'aria o nell'acqua, dato che anch'esse fanno parte del cielo e della terra, e neppure è nell'universo che hai fatto l'universo, perché non c'era spazio per alcun fatto prima che fosse un fatto, anche lo spazio. E neppure avevi in mano qualcosa da cui ricavare il cielo e la terra, perché da dove lo avresti preso se non lo avessi fatto il materiale della creazione? Ed esiste qualcosa, se non perché tu esisti. Dunque tu hai parlato, ed ecco furono tutte le cose, ed è con la parola che le hai fatte. Ma come hai parlato? Forse quando risuonò dalle nuvole una voce che diceva «Questo è il mio figlio diletto», ma il suono di quella voce si produsse e svanì, ebbe un inizio e una fine. Le sillabe risuonarono e passarono, la seconda dopo la prima, la terza dopo la seconda, e così via, nel loro ordine, finché dopo tutte le altre venne l'ultima, e dopo l'ultima fu silenzio. E le tue parole, formate nel tempo, l'orecchio esteriore le annunciò alla mente ragionevole, che protende il suo orecchio interiore alla tua parola eterna. Così ci chiami all'intelligenza della parola, Dio presso Dio, che eternamente viene detta, e per lei tutto si dice eternamente. Là nessuna cosa finisce d'esser detta perché un'altra la segua, così che una per una si possono dire tutte, si dicono tutte insieme, eternamente. E se così non fosse, ci sarebbero già tempo e mutamento, non vera eternità e vera immortalità. Questo lo so, Dio mio, e te ne rendo grazie. Lo so e te lo confesso, mio Signore, come me lo sai, ti benedice chiunque sa apprezzare la verità accertata. Sappiamo almeno questo. Sappiamo che di quanto una cosa non è ciò che era ed è ciò che non sarà. Di conseguenza, nella tua parola, nulla può venir prima o venir dopo, dato che è veramente immortale ed eterna. Ed è così, con questa parola, a te coeterna, che dici tutto insieme, eternamente ciò che dici, e che si fa tutto ciò che si fa quando parli. E tu non crei altrimenti che parlando, e tuttavia non vengono tutte insieme all'essere, e non durano eterne le cose che parlando tu fai essere. Perché? Di grazia, mio Dio e Signore. In quale modo lo vedo, ma non so come esprimerlo in parole, se non forse dicendo che per ogni cosa la cui esistenza ha un inizio e una fine, il momento esatto in cui la sua esistenza deve cominciare o finire è conosciuto in una norma eterna dove nulla comincia né finisce. E questa è la tua parola, che è per noi principio, perché parla anche a noi. In questo principio, Dio, hai fatto il cielo e la terra, nella tua parola, nel figlio tuo, nella tua potenza, nella tua sapienza, nella tua verità, miracolo di un dire che è creare. Chi lo comprenderà? Chi saprà raccontarlo? Che cos'è questa luce che balena e colpisce al cuore senza ferire, e m'agghiaccia, e m'accende di terrore per esserne dissimile, e del fuoco per cui le sono simile? È la sapienza. È la sapienza stessa che balena attraverso queste nubi, e non appena da lei mi distoglie il carcere di nebbia delle mie angosce, in queste nubi io mi riavvolgo, perché è così fiaccato dalla miseria il mio vigore che non sono in grado di sopportare il mio bene finché tu, come Signore, che si faccia indulgente verso tutte le mie ingiustizie, mi guarisca anche da tutti i miei smarrimenti. Tu che riscatterai la mia vita dalla fossa, quando sarà rinata l'aquila della mia giovinezza. Ecco, non sono carichi di vecchiaia quelli che ci chiedono che cosa faceva Dio prima di fare il cielo e la terra. Se infatti non aveva occupazione, non faceva nulla, dicono, perché non ha anche dopo mantenuto questo stato in cui si asteneva da ogni operazione? Ma se si è avuto un nuovo impulso in Dio e una volontà nuova di istituire un creato che non aveva mai istituito prima, che vera eternità può essere quella in cui nasce una volontà che prima non c'era? Quelli che parlano così non ti comprendono ancora. Sapienza divina, luce delle menti, non capiscono ancora in che modo si faccia ciò che per te e in te si fa, e si sforzano di giungere alla conoscenza dell'Eterno, ma intanto il loro cuore ancora svolazza fra il passato e il futuro agitarsi delle cose, e ancora è vano. Chi riuscirà a tenerlo fermo un attimo, a fargli carpire un istante dello splendore dell'Eterno stare, che lo confronti con il tempo instabile e veda che non hanno misura comune, veda che la lunghezza di un intervallo di tempo, anche lunghissima, non è fatta che di molti momenti che passano e che non possono durare simultaneamente, mentre nell'Eterno nulla passa, ma tutto è presente. Che nessun intervallo di tempo può essere tutto presente. È sempre il passato è cacciato dal futuro, e il futuro deriva dal passato, e che ogni passato e ogni futuro è creato da ciò che sempre è presente e da questo decorre. Chi tratterrà il cuore dell'uomo che stia fermo e veda come in questo stare l'eternità comandi passato e futuro, lei che non passa e che non è mai avvenire? E come avrà questo potere la mia mano o la mano della mia eloquenza per riuscire in un'impresa così grande? Ecco come rispondo a chi domanda che cosa faceva Dio prima di fare il cielo e la terra. Non come fece quel tale, con una battuta di spirito. Preparava la Geenna per chi indaga gli abissi. Ridere non basta per capire. No, non rispondo a questo modo. Preferirei allora una risposta come quello che non so, non so, che almeno risparmia la facile ironia per chi solleva una questione profonda e il plauso per chi dà una risposta falsa. Invece io affermo che tu, nostro Dio, sei il creatore di ogni cosa creata e, se per cielo in terra si intende ogni cosa creata, oso affermare. Prima di fare il cielo e la terra, Dio non faceva cosa alcuna. Perché? Che cosa avrebbe fatto se non una cosa creata? Magari sapessi tutte le cose che vorrei, che mi sarebbe utile sapere come so questa, che nessuna creatura venne fatta prima che fosse fatta una qualche creatura. Ma se qualcuno è tanto leggero di mente da fantasticare di tempi più remoti ancora e si meraviglia che tu, un Dio che tutto può e tutto crea e sostiene, artefice del cielo e della terra, abbia atteso innumerevoli secoli prima di metter mano a un'opera così grandiosa, si svegli E apra bene gli occhi, perché è irreale ciò di cui si meraviglia. E come potevano passare innumerevoli secoli se non li avevi fatti tu, l'autore di tutti i secoli, tu, che li instauri? E come può esistere un tempo che tu non hai instaurato? E come può essere passato se non è mai esistito? Se insomma tutto il tempo è opera tua, e se c'è stato un tempo prima che tu facessi il cielo e la terra, perché si dice che ti astenevi da ogni opera? Quel tempo precedente, appunto, l'avresti istituito tu, non un solo momento di tempo poteva passare prima che tu istituissi il tempo. Se invece non esisteva il tempo prima che fossero fatti il cielo e la terra, perché chiedersi che cosa tu facessi allora? Non c'è un allora dove non c'è il tempo. Non è nel tempo che tu precedi il tempo, altrimenti non precederesti ogni tempo, ma dalla vetta dell'eterno presente tu precedi tutto il passato e sovrasti tutto l'avvenire, appunto perché è avvenire e una volta avvenuto sarà passato. Tu invece sei sempre lo stesso e i tuoi anni non si dilegueranno, non vanno e vengono i tuoi anni come fanno questi nostri, che se ne vanno tutti perché ciascuno possa venire. Stanno tutti insieme i tuoi anni, appunto perché stanno lì e non se ne vanno, non si fanno cacciare da quelli che sopravvengono, non passano. Un solo giorno sono i tuoi anni e il tuo giorno non è ogni giorno, ma oggi, perché il tuo oggi non cede al domani, come non succede al giorno di ieri. L'oggi è l'eternità per te. Per questo generi coeterno quello a cui tu dici oggi ti ho generato. Hai fatto tu ogni tempo e sei prima del tempo. E non c'è mai stato un tempo in cui non c'era ancora il tempo. Mai dunque, in nessun tempo tu sei rimasto senza fare nulla, perché il tempo stesso sei tu che l'hai fatto. Già. Che cos'è il tempo? Chi ce ne darà una definizione breve e facile? Chi riuscirà ad afferrare almeno col pensiero tanto da poterne parlare? Eppure, che cosa c'è che noi, quando parliamo, diamo tanto per scontato e familiare quanto il tempo? E senza dubbio capiamo quello che diciamo, capiamo anche quando ne sentiamo parlare da un altro. Che cos'è dunque il tempo? Se nessuno me lo chiede, lo so. Se voglio spiegarlo a chi me lo chiede, non lo so più. E tuttavia io affermo tranquillamente di sapere che se nulla passasse, non ci sarebbe un passato, e se nulla avvenisse, non ci sarebbe un avvenire, e se nulla esistesse, non ci sarebbe un presente. Ma allora, in che senso esistono due di questi tempi, il passato e il futuro, se il passato non è più e il futuro non è ancora? Quanto al presente, se fosse sempre presente e non trascorresse nel passato, non sarebbe tempo, ma eternità. Se dunque il presente, per far parte del tempo, esiste in quanto trascorre nel passato, in che senso diciamo che esiste anch'esso, se appunto la sua sola ragion d'essere è che non esisterà? In fondo è vero, come noi affermiamo, che il tempo c'è solo in quanto tende a non essere. E tuttavia noi lo diciamo lungo o breve, il tempo, benché così chiamiamo solo il passato o il futuro. Ad esempio, 100 anni passati fino ad oggi fanno un passato che chiamiamo lungo. E lo stesso vale per un futuro di 100 anni a partire da oggi. Invece 10 giorni, poniamo, precedenti o successivi, fanno un passato, un futuro che diciamo brevi. Ma come fa a essere lungo o breve ciò che non è? Il passato non è più e il futuro non è ancora. Del passato dunque non dovremmo dire è lungo, ma è stato lungo e del futuro sarà lungo. Mio Signore, mia luce, forse anche qui la tua verità si fa beffe dell'uomo. Questo passato che è stato lungo, lo è stato una volta che era già passato o quando era ancora presente? In effetti, per essere lungo doveva essere, dunque poteva esserlo solo finché c'era. Perciò non dovremmo dire neppure del passato è stato lungo. Infatti non troveremo mai che cosa sarebbe stato lungo, proprio perché non è dal momento che è passato. ma dovremmo dire piuttosto è stato lungo quel tempo presente, perché era lungo mentre era presente, finché non era ancora passato e non aveva ancora cessato di essere, era appunto qualcosa e quindi eventualmente anche lungo. Ma una volta che fu passato, smise anche d'essere lungo, nel momento stesso in cui smise d'essere affatto. Vediamo allora se il presente possa essere lungo, anima umana, perché a te è dato sentire e misurare la durata. Che cosa mi rispondi? Dimmi, è lungo un presente che dura 100 anni? Ma vedi prima se 100 anni possono essere presenti. Dunque, se è in corso il primo di essi, è questo che è presente, gli altri 99 sono futuri e quindi non ci sono ancora. Ma se è in corso il secondo, un anno già passato, l'altro presente e i restanti futuri. E così, qualunque sia fra questi 100, l'anno che supporremo presente, quelli che lo precedono nell'ordine saranno passati e quelli che lo seguono futuri. Perciò 100 anni non possono essere presenti. Vedi se possa almeno essere presente l'anno che è in corso. Ora, se corre di questo il primo mese, tutti gli altri sono futuri. Se il secondo, il primo è già passato e gli altri non ci sono ancora. Dunque neppure l'anno in corso è del tutto presente. E se non è del tutto presente, non è l'anno che è presente. Perché un anno è fatto di 12 mesi e di questi è presente soltanto quello in corso, quale che sia, gli altri sono passati o futuri. Benché neppure il mese che è in corso sia presente, in effetti. In effetti un solo giorno lo è. Se è il primo, sono futuri tutti gli altri. Se è l'ultimo, sono tutti passati. E uno qualunque degli intermedi sta fra i mesi passati e quelli futuri. Eccolo qui, il presente. Il solo tempo che avevamo trovato possibile chiamare lungo, ridotto appena allo spazio di un giorno. Ma esaminiamo anche questo, perché neppure un giorno è mai tutto presente. Delle 24 ore che fra notte e giorno lo costituiscono, la prima ora ha tutte le altre a venire, l'ultima le ha tutte alle spalle e ciascuna delle intermedie ne ha di precedenti passate e di successive futura. E ciascuna singola ora è una fuga di minute particelle. Quante hanno già preso il volo sono passate e futuro è quel che resta. Se è concepibile una frazione di tempo che non si possa più dividere ulteriormente in parti, per piccole che siano, questa soltanto può dirsi presente. Ma anche questa balza così rapida dal futuro al passato che non ha la più piccola durata. Perché se ne avesse, si dividerebbe in passato e futuro, ma il presente non ha alcuna estensione. Dov'è, insomma, un tempo che possiamo chiamare lungo? Forse il futuro. Non diciamo certamente che lungo, diciamo piuttosto sarà lungo. Quando lo sarà? Se anche allora sarà ancora futuro, non sarà lungo perché non sarà ancora niente del tutto. Forse sarà lungo allora quando dal futuro che ancora non esiste avrà preso a essere e si sarà fatto presente, così da poter essere anche eventualmente lungo. Ma se risuona ancora nelle parole appena dette la voce del presente stesso che nega di poter durare a lungo. E tuttavia, Signore, noi percepiamo gli intervalli di tempo e li confrontiamo e li diciamo più lunghi o più brevi, e misuriamo anche quanto più lungo o più breve un tempo sia da un altro, e calcoliamo se sia doppio o triplo, o che l'uno sia pari all'altro. Ma noi misuriamo il tempo che passa quando lo misuriamo a orecchio. I tempi passati, invece, che non sono più, o quelli futuri che non sono ancora, chi può misurarli, a meno che uno non abbia il coraggio di asserire che si può misurare ciò che non esiste? E insomma, al suo passare che il tempo può essere sentito e misurato. Una volta passato non può, perché non esiste. Io chiedo, Padre, non affermo. Assistimi, mio Dio, guidami tu. Chi mai si sognerebbe di venirmi a dire che non sono 3 i tempi, come abbiamo imparato da bambini e ai bambini abbiamo insegnato? Passato, presente e futuro. Ma c'è solo il presente, perché gli altri 2 non esistono. O forse sì, ci sono, ma come nascondigli da cui il presente appare uscendo dal futuro e in cui scompare quando si fa passato. E dove l'hanno visto altrimenti quelli che là hanno annunciato il futuro se non esiste ancora? Certo non si può vedere ciò che non esiste. E quelli che raccontano il passato non potrebbero mai darlo per vero se non l'avessero ben distinto davanti agli occhi della mente. E se non esistesse affatto, non potrebbe essere visto in alcun modo. Esistono dunque passato e futuro. Concedimi, mio Signore, speranza mia, che io cerchi ancora. Fa che la mia intenzione non ne resti smarrita. Se passato e futuro esistono, io vorrei sapere dove sono. E se non arrivo a tanto, so almeno che dovunque siano, là non sono futuro o passato, ma presente. Perché se anche là fossero futuro o passato, non ci sarebbero ancora o non ci sarebbero più. Perciò dovunque e comunque siano, non esistono che come presente. Quando si raccontano cose vere o passate, in effetti non sono le cose stesse che sono passate ad essere cavate dalla memoria, ma solo le parole concepite dalle loro immagini, che si sono fissate nella mente come tracce, dopo essere state passate per i sensi. E la mia infanzia, che non è più, è nel passato, che non è più, ma nel rievocarla e narrarla, è nel presente che io vedo la sua immagine, ancora viva nella mia memoria. Se anche le predizioni del futuro abbiano una ragione analoga, se sia cioè possibile percepire in anticipo immagini esistenti delle cose che non ci sono ancora. Dio mio, confesso, tutto questo non lo so. Questo so invece, che di solito noi premeditiamo le nostre azioni future e mentre questa anticipazione mentale dell'azione è presente, non lo è ancora l'azione stessa, che è futura. Solo quando l'avremo intrapresa e avremo cominciato a fare ciò che avevamo in mente, esisterà l'azione. Cioè, sarà presente, non futura. E tu che regni sopra il tuo creato, come insegni alle anime il futuro? Perché tu l'hai insegnato ai tuoi profeti. Che modo sarà mai di insegnare il futuro il tuo se per te nulla è futuro? O non insegni piuttosto le tracce presenti del futuro, perché ciò che non è non può neppure essere insegnato. Troppo lontano dalla mia vista è questo tuo modo, troppo elevato, non lo potrò raggiungere da solo, ma col tuo aiuto sì, potrò, quando me lo concederai, dolce lume dei miei bui occhi. Almeno questo ora è limpido e chiaro. Né futuro né passato esistono. E solo impropriamente si dice che i tempi sono tre, passato, presente e futuro. Ma più corretto sarebbe forse dire che i tempi sono tre in questo senso. Presente di ciò che è passato, presente di ciò che è presente e presente di ciò che è futuro. Sì, questi tre sono in un certo senso nell'anima e non vedo come possono essere altrove. Il presente di ciò che è passato è la memoria, di ciò che è presente la percezione, di ciò che è futuro, l'aspettativa. Se ci è permesso dir così, vedo i tre tempi e ammetto che siano tre. E si dica pure che sono tre, passato, presente, futuro, come abusata consuetudine. A me non importa, non oppongo né resistenza né rimproveri, purché si capisca ciò che si dice, che cioè che è futuro non è, come ciò che è passato. Hai portato a vecchiaia i miei giorni e passano. E come non so. E noi siamo sempre lì a parlare del tempo e dei tempi. Quanto tempo fa l'ha detto? Quanto tempo fa l'ha fatto? Da quanto tempo non lo vedo? E questa sillaba dura un tempo doppio di quell'altra. Facciamo e sentiamo fare queste asserzioni e capiamo. E ci facciamo capire. Sono cose evidentissime e perfettamente familiari. Eppure sono così oscure e la loro scoperta è cosa nuova. Ho udito udire da un dotto che i tempi altro non sono che i movimenti del sole e della luna e delle stelle. E io non ho assentito. E perché non piuttosto i movimenti di tutti i corpi allora? Ma supponiamo che i luminari del cielo si arrestino e la ruota del vasaio continui a girare. Verrebbe meno il tempo con cui misurare i suoi giri e dire o che hanno uguale durata oppure che alcuni durano di più e altri meno a lungo. E nel dir questo non parleremo noi pure nel tempo e le nostre parole non conterrebbero sillabe lunghe e sillabe brevi. E come se non in base al loro risuonare per un tempo più lungo o più breve. Dio, dai alla gente il dono di vedere anche nel piccolo le idee comuni a piccole e grandi cose. Altro è il movimento del corpo, altro è ciò che a noi consente di misurarne la durata. Anche se un corpo ora si muove, ora sta fermo, noi misuriamo quanto tempo dura non solo il movimento, ma anche la quiete e diciamo è stato fermo per un tempo uguale a quello che ha trascorso in moto, oppure è stato fermo 2 o 3 volte il tempo che ha trascorso in moto, o comunque risulti ai nostri calcoli con precisione o, come si suol dire, più o meno. Il tempo non è dunque il movimento dei corpi. E ti confesso, Signore, che ancora non lo so cosa sia il tempo. E ancora ti confesso, Signore, che so di fare questo discorso nel tempo e che da molto ormai sto parlando del tempo e che questo molto non è molto se non perché dura nel tempo. E come lo so allora se non so che cos'è il tempo? O forse non so come dirlo, ciò che so. Ah, non so più neppure che cosa non so. Vedi, mio Dio, che non mento davanti a te, così come parlo è il mio cuore. L'accenderai tu, la mia lucerna, mio Dio e Signore. Farai tu un po' di luce nel mio buio. E allora il tempo stesso, come lo misuro? Forse misuriamo un intervallo di tempo con uno più breve, come la lunghezza di un cubito misuriamo quella di un asse. Sì, in questo modo misuriamo l'estensione temporale di una sillaba lunga con quella di una breve e la diciamo doppia di questa. Così misuriamo l'estensione dei poemi con quella dei versi e quella dei versi con quella dei piedi e quella dei piedi con quella delle sillabe e quella delle sillabe lunghe con quella delle sillabe brevi. Ma non la misuriamo in pagine perché in quel modo misureremmo l'estensione spaziale, non quella temporale, ma col passare del suono delle parole che pronunciamo dicendo «è un poema lungo perché si compone del tal numero di versi, sono versi lunghi perché sono costituiti da tanti piedi, piedi lunghi perché si estendono per tante sillabe, sillabe lunga perché è doppia di una breve». Ma neppure così si afferra una determinata misura di tempo, perché può ben darsi che un verso più breve, se lo si pronuncia protraendo il suono della voce, continui a risuonare per un intervallo di tempo maggiore di quello di un verso più lungo pronunciato in fretta. E questo vale per un poema, per un piede, per una sillaba. Perciò mi è parso che il tempo altro non fosse che un modo del differire. Ma di che cosa? Non lo so. In te, anima mia, misuro il tempo. Non frastornarmi con i tuoi cosa, come, non frastornare te stessa con la folla delle tue impressioni. In te, dico, io misuro il tempo. Sì, l'impressione che le cose passando producono rimane in te quando le cose sono passate. È questa che è presente, non quella che sono passate perché lei ne nascesse. È questa che misuro quando misuro il tempo. Il tempo è lei. O non è il tempo quello che misuro? E allora quando misuriamo i silenzi e diciamo che una pausa dura quanto quel suono? Ma appunto, in questi casi, per poter calcolare in qualche modo l'estensione temporale degli intervalli di silenzio, noi ci fingiamo in loro luogo il suono della voce e cerchiamo di misurare mentalmente la durata che avrebbe. Supponiamo che una voglia emettere un suono appena un po' più lungo e abbia mentalmente prestabilito quanto dovrà essere lungo. Costui avrà certamente percorso in silenzio e affidato alla memoria quel determinato lasso di tempo e quindi avrà appreso a emettere la voce che risuona finché sia giunto il termine stabilito. Anzi, che è risuonata e risuonerà, perché quella è già passata, che è già passata, è senza dubbio risuonata e quanto ne resta risuonerà. Ed è così che passa, mentre l'intenzione presente traduce il futuro in passato e il passato cresce via via che decresce il futuro, finché, consumato il futuro, tutto sarà passato. Ma come può decrescere e consumarsi il futuro che non esiste ancora? E come può crescere il passato che non esiste più, se non in quanto esistono tutti e tre nella mente che opera questo processo. Perché è la mente che ha aspettative, fa attenzione, ricorda. E quello che si aspetta le si fa oggetto di attenzione per divenire oggetto di memoria. Chi nega allora che il futuro ancora non esista? Ma c'è già l'aspettativa mentale del futuro. E chi nega che il passato non esista più? Ma nella mente ancora c'è il ricordo del passato. E chi nega che il tempo presente sia privo di estensione perché passa in un punto? Ma ciò che perdura è l'attenzione attraverso la quale ogni cosa si abbia presente sconfina gradualmente nell'assenza. Quindi non è lungo il tempo futuro che non esiste, ma un lungo futuro è un'aspettativa a lungo termine di cose a venire, e non è lungo il passato che non esiste, ma un lungo passato è una memoria di lunga durata delle cose avvenute. Mi dispongo a cantare una canzone che conosco. Prima di cominciare, la mia aspettativa è protesa alla composizione nel suo insieme, ma basta che cominci ed ecco, via via che faccio crescere il passato a spese dell'aspettativa, il mio ricordo si estende in proporzione e il mio vivere in questa azione è un protrarsi di ciò che ho già detto nella memoria e nell'aspettativa di ciò che sto per dire. Ma l'attenzione è presente ed è la sua presenza a far sì che ciò che era futuro si traduca in passato. Via via che questa azione si compie, l'aspettativa si accorcia e il ricordo si allunga, finché l'aspettativa è tutta consumata quando l'azione è compiuta e passata tutta nella memoria. E ciò che avviene dell'intera canzone avviene anche di ciascuna sua minima parte, fino alle singole sillabe, è di un'azione più lunga di cui quella canzone può far parte, ed è l'intera vita di un uomo che è costituita da tutte le sue azioni, è dell'intera storia dei figli degli uomini che è costituita da tutte le vite umane. Ma poiché la tua grazia è al di sopra di tutte le vite, ecco, non è che distrazione la mia vita, eppure la tua destra mi ha raccolto nel mio Signore, il figlio dell'uomo, mediatore fra te l'uno e noi molti, in molte cose, per molte vie, in modo che per mezzo suo mi afferri a questo che mi ha afferrato, e dai giorni antichi io torni in me seguendo l'uno e dimentichi il passato, non per farmi distrarre dalle cose che verranno e che se ne andranno, ma per essere teso a quelle immobili davanti a me. Così, in un'attenzione ormai non più distratta, inseguo la palma di chi è chiamato in alto, dove udirò risuonare le tue lodi e contemplerò la tua felicità che non passa. Ora i miei anni piangono e il mio conforto sei tu, Padre mio, eterno e Signore, e io mi sono sbriciolato nel tempo, senza conoscerne l'ordine, e i miei pensieri, i visceri dell'anima, li fa a pezzi la furia del molteplice, fino a quando, nella catarsi del tuo fuoco d'amore, io sarò fuso e rifluito in te, e in te troverò stanza e consistenza nella tua verità, che è la mia forma. Mio Dio e Signore, come profondo e alto il tuo segreto, e quanto lontano me ne hanno gettato le conseguenze dei miei errori. Guarisci i miei occhi e anch'io potrò godere la tua luce. Certo, se c'è una mente forte di conoscenza e prescienza così grandi che tutto il passato e il futuro le sono familiari come a me una canzone notissima, troppo meravigliosa e terrificante è questa mente cui nulla sfugge che sia avvenuto o debba ancora avvenire in tutti i secoli. Proprio come non sfugge a me quando canto quella canzone, quale quanta parte di esso già cantato dall'esordio e quale quanta ne resti per finire. Quando uno canta e ascolta cantare una canzone nota, l'aspettativa dei suoni a venire e il ricordo di quelli passati causano variazioni nel sentimento e la percezione ne viene distratta. Niente del genere accade a te, che sei immutabilmente, cioè veramente, eterno creatore delle menti. Come conoscevi in principio il cielo e la terra senza alcun mutamento nella tua coscienza, così in principio creasti il cielo e la terra senza disperdere nel tempo l'azione. Chi capisce ti renda lode, e ti renda lode anche chi non capisce. A quali altezze tu stai, tu che hai negli umili di cuore la tua casa, perché tu risollevi chi è prostrato e non cade chi ha in te la propria altezza.